Primi problemi per il governo Monti. Le badanti dei ministri, dopo questo intenso weekend di lavoro, vogliono un congruo aumento sugli straordinari. Noi siamo i giovani, più giovani. Siamo l'esercito del surf.